Eccomi, buongiorno. Buongiorno, perfetto. Come stai? Bene, sai una cosa? Ti sento malino. Mi dispiace, provo a urlare ancora più forte. Adesso sì. Va un po' meglio. Va bene. Grande, dai, sì, proviamo a fare due chiacchiere anche noi allora, visto che il collegamento, bene, diciamo, è un po' in distanza, ma purtroppo in questo momento ne siamo costretti in tutti i modi. Detto questo, cominciamo. Allora, Paolo Nani, attore, regista teatrale, originario di una città che io amo alla follia, che è Ferrara, intraprende studi artistici nel 78, entra in contatto con una compagnia teatrale che seguiamo, è il Teatro Nucleo, arriva in Danimarca. Come arrivi in Danimarca, Paolo? Dunque, letteralmente in treno. Con, esatto, una immaginavo una risposta. E poi, non solo questo, dopo 24 ore di viaggio ho sbagliato la fermata, perché ero crollato dal sonno e ho saltato la fermata. Beh, diciamo che può capitare, ecco, non è una cosa così... Sì, ma è quella cosa che mi ha fatto subito amare i danesi, perché alla fermata successiva, che era un'ora dopo, ho detto: non ho soldi danesi. E lei mi ha detto: che cosa hai? Delle lire. Ok, fate i conti. Ok, sono 10.200. Ah, non mi mandate carabinieri? No. I danesi sono molto tranquilli, pacifici e pratici. Beh, mi sono piaciuti subito. E quindi subito c'è stata un'accoglienza, da un segnale, da una microsensazione che ti ha dato il benvenuto in questo modo. Hai iniziato a lavorare, esatto. Hai iniziato a trovare ispirazione lì, ma c'è un'altra curiosità che mi dà motivo di dialogo con te. La figura del clown. Questa è sì, ma sai una cosa? Perché tutti mi chiamano clown? Io non ho mai studiato una frazione di secondo il clown. Ah, ma no, non penso che sia uno studio. Non penso che sia... Però è una figura, è un'icona, è un'immagine, è una sensazione. Guarda, mi chiamano Mimo e mi chiamano clown. Ma io non ho mai studiato queste cose, io sono un attore, diciamo, sì, certo, così, no? E quello che ho fatto, diciamo, perché ho creato effettivamente spettacoli che fanno ridere, diciamo un clown moderno con la lettera, il mio spettacolo che va dal 92, è uno spettacolo dove non ho né naso né niente, costume, niente particolare. E mi ha chiamato Mimo per questo spettacolo dove non parlo, no? Sì. E però, ripeto, diciamo che tocco tanti colori, parlo sempre di tavolozza, con l'attore deve avere tanti colori, e i grandi artisti comici sono anche grandi attori drammatici. Sì. Per la questione della polarità, se il mondo è così, non puoi avere una cosa senza un'altra, non puoi inspirare senza anche espirare, queste cose, insomma. Certo. E a un certo punto ho detto: voglio fare uno spettacolo con Nas, voglio truccarmi per 40 minuti. Ah. E così l'ho fatto, ho creato Jekyll on Ice, dove effettivamente ha un costume che mi ci mette mezz'ora di tirarlo su, insomma. impegnativo, insomma. Sì, sì. Ok, ma sei a Copenaghen? Scusa la domanda banale. Dunque, io abito a Vordingborg, che è a un'ora a sud di Copenaghen. Okay. Sei vicino, diciamo così, insomma. Beh, e dopo questi percorsi che ti hanno portato nella città scandinava, che ti hanno portato in Danimarca, hai visto la Sirenetta? Domanda sempre. Sì, una volta passando così di sfuggita, ma non è niente di particolare. È una figura non è una cosa. Però a me, sì, sin da bambino. Non è una cosa antica. No, assolutamente. È una robina così. Piccola, è una sirenetta, è un simbolo. Sì, niente particolare. Sì. Oh, ok, no, ci tenevo perché sin da bambino è sempre stato un personaggio di cui ero innamorato, mi ha sempre affascinato. Allora ogni volta che qualcuno in Danimarca dico: è la sirenetta! E sono quei luoghi comuni. Certo, è che Andersen era danese, appunto. Eh certo. Lui che ha scritto La Sirenetta, eccetera. E il brutto Anatrocco, ha scritto delle cose notevoli, Andersen. Sì. Sì, sì. Sì. Com'è far ridere con il corpo? Dunque, forse è una cosa che non saprei spiegarti. Sono alcune cose, sai, che sono difficili da spiegare. Te lo chiedo apposta. Ci sono sempre state, sono sempre state una cosa parte di me, diciamo così. Perché io parlo mangiandomi le parole. Se voglio, adesso mi sto controllando. Se voglio, non capisci niente di cosa dico, perché se parlo come mio padre e mio fratello messi insieme, non nessuno ci capiva. E quindi così, insomma, sono sempre stato parecchio mimico, diciamo così. Sì, sì, e ovviamente mi è servito, facendo teatro mi è servito a un certo punto. Abbiamo detto: facciamo uno spettacolo dove non si parla e va in giro per il mondo e sta tutto in una valigia. E così si è fatto. E così si è partiti. Hai esperienza o anche stai studiando o già avuta esperienza, scusa, come regia? Certo, ho fatto diverse regie, certo, sì. Cosa ti appassiona? Dunque, sono due cose molto diverse. Certo. Ma sono due cose che appartengono, che sì, muovono due cose diverse della testa, del corpo, della persona. La regia è una cosa è come un compositore, vedi che cosa funziona, cosa non funziona, aiuti qua, aggiusti lì, e poi c'è la cosa di creare una storia o un modo per raccontare, per coinvolgere. Mentre invece se ci sei dentro come attore è tutto un altro percorso, ovviamente. Sì. Dentro hai il contatto con il pubblico, che è la prima cosa, una cosa che affascina e spaventa, ed è quella cosa che senti che puoi sviluppare. C'è gente che fa l'attore ma non ha empatia, per dire, no? Sì. Invece coltivando quella cosa, quando hai imparato, è una cosa sottilissima, quando hai imparato quella cosa lì, la puoi nutrire, senti se una persona si alza e va via dall'ultima fila. Cioè, è una cosa che non è un po' difficile da spiegare. Però certo. Allo stesso tempo puoi anche nutrire quel filo che si crea e mantenerlo vibrante, insomma. Sì, è un momento difficile anche in Danimarca, immagino, perché è una cosa che ci coinvolge a livello globale. Sì, certo. Tra l'altro in Danimarca da lunedì si apre. Ma guarda un po'. Non è che si apre tutto, ma si va da 5 a 25 persone. Ah, ok. E quindi anche a molta attività. Probabilmente, sai che in dettaglio non sono sicuro del teatro, ma se si può passare da 5 a 25 allora sarà possibile. Certo. È un passo importante, perché poi i negozi apriranno, insomma, i ristoranti apriranno, insomma, così. Speriamo, chiaro, che ci sia sempre più uno sviluppo, e non solo in Scandinavia ma in tutti gli altri paesi del mondo. Detto questo, la differenza tra clown e Pierrot, per le tue emozioni, per il tuo sentire. Tra clown e Pierrot? Sì. Pierrot? Sai che io Pierrot non saprei dire, che non lo conosco come figura. È malinconico. Non saprei. Fa ridere nel suo... ma ci confrontiamo. Sì. Non voglio che tu mi sveli i massimi sistemi. Voglio sentire la tua opinione. Ma i massimi sistemi io non li ho studiati. Io ho studiato facendo le cose. Massimi sistemi nel senso della letteratura teatrale, io non ho studiato, io quello che so e quello che insegno, tra l'altro quando insegno, è quello che ho imparato facendo, e quindi beh, 42 anni qualcosa l'ho imparato, i miei spettacoli vanno in giro da parecchio tempo, e li ho fatti in 40 paesi, 42 per la verità, e quindi qualche cosa ho imparato ed è funziona. Certo, sarai in conversazione con Nicola Bonazzi, sarà sabato 27 febbraio 2021 alle ore 21 e in diretta, ovviamente, come si può, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Teatro dell'Argine, col quale tu hai già collaborato più volte. Sì, certo, sono stato a fare spettacoli da lì. Sì, e questo è indubbiamente un motivo in più per avere conoscenza di percorsi, di artisti, come con i dialoghi che il direttore artistico Bonazzi riporta ogni volta per questo periodo un po' di ferma, per questo periodo in attesa di riprenderci in presenza al più presto. Cosa ti manca di più in questo momento? Che cosa mi manca di più? Puoi indovinare. L'ultima volta che ho fatto spettacolo è stato in settembre. Potresti rispondermi la piadina, non so, oppure un piatto di tortellacci alla zucca. Ma che cosa dici dell'Italia? Cosa mi manca di più? No, in generale. Ah, in generale. No, quella cosa che dicevo prima, che ci stavo accennando, mi manca il fatto di andare a fare spettacolo. Certo. Di viaggiare e fare spettacoli. La mia vita è stata così, per dire, 2 anni fa, nel 2019, ho avuto 140 spettacoli e l'anno scorso 41, per la maggior parte nei primi 2 mesi. E poi basta. Certo, così. Perché poi dopo siamo arrivati alla limitazione più totale. Certo. Ma mi sono provato a cercare che cosa si può fare invece. Ho sviluppato un modo di insegnare online. Ok. Divento sempre più bravo, imparo sempre di più. vedi che diventi bravo poi a forza di... Il curioso è che in queste situazioni che ci portano a essere sempre più limitati si sviluppano delle sensazioni, dei sentire, delle possibilità che ci fanno scoprire non solo in noi stessi, certo, ma anche al di fuori, anche negli altri, e secondo me questo è uno tra i tanti motivi di ripartenza e di vivere queste realtà. Che dire, io ti ringrazio tantissimo. È quel principio per cui limitando le possibilità accresci la creatività. Per dire, ti dico, fai una connessione, potete usare solamente la lettera P e partite per pochi parenti, però potenti, e cominciate a parlare usando solo la lettera P, e questo ti accresce, incominci a essere, ti si accende una valvola, capito? Sì, che l'ho spenta. Sì, sì, è un recinto, ma non è limitante, è semplicemente diverso. Se si vive in questo modo, potrebbe essere già un percorso iniziale. Del resto, certo, ti chiami Paolo con la P, e quindi sei anche portato. Più difficile per me con la W, però anche in questo troveremo. Ok, ok, non voglio parole in approfondimento con la W, va bene. No. Io ti ringrazio tantissimo, ci siamo già capiti io e te, potremmo fare spettacolo, guarda. Io ti ringrazio tantissimo per la partecipazione, ricordando che non c'è Del Marcio in Danimarca, tutt'altro, ma mai guai. Un'altra citazione danese. Guarda, c'è sempre del bello e del brutto in qualsiasi luogo, insomma le cose così sono così, c'è sempre qualcosa di bello dove si va e qualcosa di meno bello. Meglio a casa, certo. Capisco, mi rendo conto. Ricordo che è sabato 27 febbraio, cioè domani alle ore 21, in diretta ai noi sulla pagina Facebook, sperando di trovarci in presenza al più presto, e sul canale YouTube del Teatro dell'Argine, parlando con Paolo Nani. Abbiamo anticipato l'incontro che vedrà co-protagonista Nicola Bonazzi, direttore artistico di Teatro dell'Argine. Grazie Paolo per questa conversazione. Benissimo, ti auguro una buona giornata. Un vero... A presto. Anche a te, buona giornata. Ciao. Ciao.